Qualcuno ha scritto, ha detto che gli esami non finiscono mai ed è verissimo, perché a volte anche se non siamo noi gli esaminandi, viviamo le stesse tensioni dei nostri figli che sotto esame ci vanno davvero. E parliamo dei ragazzi che tra qualche giorno, mi sembra che manchino ormai circa 27 giorni, giù di lì dovranno affrontare la prova d'italiano, ma anche chi è alla maturità, chi è all'università o chi deve fare gli esami di terza media. Insomma, di esami ce ne sono per tutti e noi abbiamo una professoressa qua in studio con noi che ci darà alcuni consigli. Professoressa Melo. Buongiorno a tutti. Una professoressa simpatica che si mette dall'altra parte della cattedra. Sì, io mi ricordo sempre di quando ero una studentessa e quindi lo tengo presente proprio brava, come memo. Brava, brava. un buon memo per la prof Melo. Senta, oggi che cosa dobbiamo fare noi genitori? Beh, oggi vi farò lavorare un po' sul fisico, esercizi antistress. Addirittura? Sì, gli stessi che dico ogni tanto di fare appunto ai miei studenti, alle mie figlie, quando si è sotto pressione. Quindi quando, per esempio, dopo ore, no? Anche noi stiamo sempre alla scrivania, chiusi in macchina, eccetera, abbiamo bisogno di scaricare un po' di tensione che guarda caso si accumula sempre nella nuca, le spalle, perché dorso. Abbiamo un po' la sindrome di Atlante, soprattutto noi mamme, no? Pensiamo di portarci il mondo sulle spalle e non è così, noi lo crediamo, ma ogni tanto una scrollatina di spalle aiuta. Il pianeta deve essere un po' sbattuto a terra e allora proviamo a fare qualche esercizio, cominciando a sdraiarci sul dorso, su un tappetino, per terra, non sul letto perché è troppo morbido, per un minuto con le braccia semiflesse lungo il corpo, le gambe allungate e i muscoli del viso non contratti. E stiamo in silenzio pensando a un mare, a una spiaggia, un silenzio, un tramonto, cose belle. Sì. Poi ci si alza in piedi e ci si stira con le braccia alzate e tese come se si volesse toccare il soffitto. Immaginate di essere in campagna e di dover cogliere delle invitanti ciliegie rosse da un ramo altissimo. Ci si sentirà subito più rilassati. Quindi direi ciliegie rilassanti. Proprio così. Potremmo invitare i nostri ragazzi a farlo con noi, non so se si prestano, però... No, il teatrino sarebbe forse divertente, qualche papà ghignerebbe moltissimo. Va bene, e anche per i nostri ragazzi questo dovrebbe funzionare. Certamente. Soprattutto certamente. Per dire stacca, dai, rilassati un po'. Sì. Occupati di te. Occupati di te. E noi ci occuperemo sempre anche di loro. Certamente, sempre lì. Ecco, sempre lì. Professoressa Melo, anche lei tornerà qui domani per altri consigli. Sì, certo. E allora io saluto la professoressa Melo, saluto voi che ci avete seguito e ascoltato sino ad ora e naturalmente vi do appuntamento domani, sempre dopo il GR delle 11. Buona giornata da Nicoletta Carbone.